Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio, per il sole d'ogni giorno che riscalda e dona vita. Egli illumina il cammino di chi cerca te, Signore. Per la luna e per le stelle. Laudato sì, Signore mio. Io le sento, mie sorelle. Laudato sì, Signore mio. Le hai formate su nel cielo. Laudato sì, Signore mio. E le doni a chi è nel buio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba, su di lei noi fatichiamo per il pane d'ogni giorno. Soffre con coraggio. Laudato sì, Signore mio. E perdona nel tuo amore. Laudato sì, Signore mio. Tu gli dai la pace tua. Laudato sì, Signore mio. Alla sera della vita. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Io ti canto, mio Signore. Laudato sì, Signore mio. E con me la creazione. Laudato sì, Signore mio. Ti ringrazia umilmente. Laudato sì, Signore mio. Perché tu sei il Signore. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio.